per conto dell'organizzazione, sostengono i magistrati, per le sue tasche, sospetta la difesa. Ma da dove parte la storia di Leonardo Marino? Io sono nato in provincia di Caserta, esattamente a Pastorano. Sono nato nel 1946, sono rimasto, diciamo, a mio paese fino all'età di 5 anni. Poi, siccome mio padre faceva il ferroviere, ha avuto un trasferimento e così con tutta la famiglia ci siamo trasferiti a Torino. Non erano ancora gli anni del boom, diciamo negli anni degli anni 60, quando ci sono state, diciamo, immigrazioni di massa per soprattutto per me, così un bambino di 6 anni andare a scuola in un posto dove anche così è rivisto come il terrone, no? Il mio primo lavoro è stato in una fabbrica di occhiali. Nel frattempo avevo fatto domanda alla Fiat, perché insomma in quegli anni così chi abitava a Torino il traguardo massimo era quello di, cioè, di essere, andare a lavorare alla Fiat. Sì, di essere assunto alla Fiat, un lavoro sicuro. All'inizio l'impatto è stato molto pesante, ma poi così, anche per orgoglio, diciamo, ho resistito e poi ho lavorato, diciamo, alla Fiat fino a quando poi sono stato licenziato. Se non ricordo male, nel 70, per un motivo molto banale, perché ritardai a inviare un certificato medico. Cioè, a Torino, all'interno, diciamo così, di lotta continua, ero conosciuto praticamente da tutti. Non è che stessi più con uno più con l'altro, ero amico di tutti. Il pentito Leonardo Marino è stato ritenuto credibile dai giudici italiani. Ma quali sono i punti importanti del suo racconto davanti ai carabinieri e nelle aule giudiziarie? Marino parla di un livello illegale e occulto dell'organizzazione Lotta Continua, di ordini precisi ricevuti da Giorgio Pietro Stefani, allora capo della struttura del servizio d'ordine, e direttamente da Adriano Sofri durante un comizio a Pisa. Adriano Sofri avrebbe dato a Leonardo Marino l'ordine di uccidere il commissario Luigi Calabresi ai margini di un comizio a Pisa il 13 maggio del 72, quando migliaia di persone protestavano contro l'uccisione dell'anarchico Franco Serantini. Quel giorno a Pisa, accanto ad Adriano Sofri, c'era anche il militante di Lotta Continua, Guelfo Guelfi. Io ed Adriano siamo sempre stati molto prossimi dalla fine del comizio fino alla sera a casa della sua ex moglie, la Alessandra Peretti. E quindi vuol dire che siamo stati vicini a distanza di un metro e mezzo, dalle 6 del pomeriggio fino alle 9:30-10 di sera. Poi voi, Marino, l'avete incontrato a casa della moglie di Sofri. Sì, questa mi pare è così, la contraddizione, la ciliegina che sta sulla torta, perché se un mandante di un omicidio tanto efferato ma anche complicato come è stato l'omicidio Calabresi avesse dovuto dare delle disposizioni e articolare, insomma, queste disposizioni con delle motivazioni, quale migliore occasione poteva essere quella dell'incontro a casa di Alessandra Peretti, dove appartatamente e separatamente, senza alcun disturbo, avrebbero potuto parlare e precisare di questa cosa. Marino non si ricorda, se l'è ricordata dopo quella circostanza. È, come dire, un piatto freddo, è un piatto costruito un po', secondo quanto siamo, posso aver ragionato in tutti questi anni, un po' in casa Marino, un po' in una compagnia dei carabinieri e un po' in un tribunale della Procura di Milano. Tra il 1997 e il 1998 realizzo una nuova indagine sull'omicidio di Luigi Calabresi. Così mi reco più volte nel carcere Don Bosco di Pisa, dove era detenuto Adriano Sofri. E in quella saletta della biblioteca del carcere ho registrato numerose conversazioni praticamente inedite. Dopo queste dichiarazioni Adriano Sofri non ha più parlato dell'omicidio del commissario Calabresi. Via dei nostri accusatori, dei magistrati che ci accusavano. Ti ricordo anche che all'inizio di questa nostra imputazione, all'esordio della nostra storia clamorosa quando fummo arrestati, eccetera, nell'88, io credo che i nostri accusatori avessero un appetito molto, ma una bocca molto più spalancata e pensassero di inghiottire molto più che noi, insomma. Forse ti ricordi gli avvisi indirizzati a una quantità di persone che erano state di lotta continua, note come dirigenti di lotta continua, eccetera, e quindi con un'intenzione di fare una specie di retata e di addebitare all'organizzazione nel suo complesso una responsabilità in questo omicidio. Tant'è vero che la tesi che hanno continuato ad accreditare addirittura nelle sentenze sostenuta da Marino, e che è delirante per chiunque abbia conosciuto lotta continua e quei tempi e per chiunque abbia un po' di buon senso, era che ci fosse stata addirittura una votazione a maggioranza nell'esecutivo nazionale di lotta continua per decidere se ammazzare o no Calabresi, con una maggioranza che ha votato, una minoranza che si è opposta. Come si possano pensare baggianate del genere, è abbastanza incredibile. Loro l'hanno pensato, però hanno rinunciato, secondo me spaventati intanto dagli errori che hanno fatto immediatamente e che li hanno costretti a fare marcia indietro almeno su una serie di cose. E poi hanno scelto la via che a loro sembrava più facile, cioè quella di processare per diritto comune un omicidio e poi invece di tirarne valutazioni morali, storiche, predicanti, retoriche, eccetera, nelle loro sentenze in sede del tutto impropria rispetto al diritto, quindi appunto accampandosi a storici, a moralisti, eccetera, eccetera. La cosa che voglio dire è che quando dico che noi non solo non abbiamo avuto a che fare con nessuna scelta terrorista, anzi siamo stati per tempo e molto rigorosamente contro le scelte terroristiche, come dimostra la nostra storia, non vuol dire affatto, insomma, una specie di idilliaca rimozione del fatto che noi allora eravamo come altri che poi scelsero la strada terrorista, convinti della inevitabilità della violenza, convinti della necessità di prepararsi all'eventualità di una lotta armata, convinti della necessità di prevedere una repressione, una opposizione alle lotte proletarie, popolari, eccetera, che noi volevamo condurre, cui attribuivamo la nostra speranza in questo cambiamento rivoluzionario da parte dello Stato, da parte dell'estrema destra, da parte di qualunque forma di squadrismo, eccetera, in maniera tale da costringere alla violenza, come la storia ha dimostrato moltissime volte. Dunque, noi avevamo questa convinzione, che non era una convinzione ideale, cioè un amore per la violenza, insomma, era una specie di partecipazione di una antica e drammatica convinzione storica, insomma. Dunque, noi abbiamo pensato queste cose, abbiamo praticato anche azioni violente, qualcuno di noi ha cominciato a prepararsi o a fare quello che gli sembrava una preparazione a eventualità di questo genere. In me non c'è nessuna, insomma, nessun abbellimento, insomma, nessuna trasformazione di lotta continua in una brigata di bravi ragazzi, insomma. La scelta terroristica è completamente un'altra cosa, insomma, era una specie di persuasione che occorresse mettere al primo posto la scelta di praticare la violenza, di praticarla direttamente contro i nemici, di abbandonare la lotta che allora si chiamava la lotta di massa come un terreno ormai esaurito, eccetera, e immediatamente, insomma, gettarsi nella lotta armata. Errore doppio, come si sa e come ora sanno in particolare quelli che l'hanno commesso, che sono le persone più consapevoli probabilmente a questo punto del loro errore. Errore politicamente grave e poi moralmente gravissimo, perché ha spinto persone la cui molla iniziale era la dedizione della propria vita, magari fino al sacrificio e fino alla morte, alla disponibilità a diciamo giocare con la vita degli altri, togliere la vita agli altri, a mescolare, diciamo, questa disposizione al sacrificio con la disponibilità a sacrificare gli altri, fino alle cose terribili che poi sono successe nel corso degli anni, insomma, fino a uccidere, non so, i parenti degli infami, fino al sequestro Moro, fino alle cose che sappiamo bene. E in una di queste conversazioni in carcere era allora presente anche Giorgio Pietrostefani, latitante in Francia dopo la condanna a 22 anni per omicidio. Non mi sono mai aspettato nulla da tutto questo, no? Io credo che il diritto alla fine debba prevalere, no? Il diritto e la giustizia, no? E quindi che venga chiarito fino in fondo quello che è stato fatto, diciamo, gli imbrogli che sono stati fatti nel corso di questi anni a nostro carico, e quindi che la giustizia si affermi in una vicenda come la nostra, che non è sola ovviamente, no? Di ingiustizia, per restituirci veramente liberi alle nostre famiglie, come io spero, insomma, no? Dico, se sono venuto qui, sono venuto soprattutto per difendere il mio nome, il nome che portano le mie figlie e la mia storia, no? E non perché mi aspettassi qualcosa da qualcuno, ma solo, diciamo, il riconoscimento della nostra innocenza. Oggi le condizioni politiche sono diverse. Il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha concesso la grazia a Ovidio Bonpressi. Il ministro guardasigilli, Clemente Mastella, promette di accelerare il provvedimento di clemenza per Adriano Sofri entro fine d'anno. Resta però ancora da chiarire la posizione di Giorgio Pietrostefani, formalmente latitante a Parigi. La verità sull'omicidio di Luigi Calabresi è dunque ancora lontana. È stato persino a dire, per eccesso di zelo, che io stesso forse in qualche situazione sarei arrivato personalmente a compiere anche un omicidio, grazie a Dio non è mai successo, però sono arrivato a dirlo retroattivamente nei confronti degli ipocriti, insomma, che fingono di non ricordarsi in che tempi si viveva, ma tutto questo non ha niente a che fare con quella teoria del doppio livello che immagina Lotta Continua come una specie di organizzazione terrorista ante litteram, in cui la politica giocata alla luce del sole nelle piazze era una specie di maschera di una vocazione oscura, notturna e violenta. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi.